sta accadendo che la settimana scorsa una decina di migranti ospiti appunto all'interno del CAS di Malalbergo hanno ricevuto una notizia da parte della prefettura di avere 3 giorni per lasciare la struttura. I migranti si sono rifiutati di andare via, anche perché è evidente che in 3 giorni è impossibile trovare un nuovo alloggio, e hanno deciso di denunciare pubblicamente la cosa e convocare una conferenza stampa per parlare appunto con i giornalisti e per far sapere sia alla prefettura che al comune che non è possibile essere cacciati in soli 3 giorni. Sono tutti migranti che hanno ricevuto il permesso di soggiorno, sono tra, diciamo, quei pochi che venendo da paesi considerati non sicuri hanno effettivamente diritto alla protezione internazionale, peraltro. Secondo la direttiva della prefettura, queste persone avrebbero perso i requisiti, ma quali sono questi requisiti? La prefettura, e probabilmente, anzi certamente, guidata dallo stesso ministro Piantedosi, sembra voler esplicitamente attaccare quelle che sono delle pratiche, diciamo, di accoglienza che quantomeno a Bologna e sul territorio emiliano-romagnolo hanno funzionato negli ultimi anni, e ciò significa un rapporto tra i CAS e i SAI, cioè tra la prima accoglienza e la seconda. In questi anni tendenzialmente c'è stata una tutela dei migranti, anche perché in realtà, come il coordinamento migranti, diciamo, hanno marcato uomo la prefettura finché non facesse, come dire, delle porcherie, e in questi anni appunto c'è stata una comunicazione per cui c'è stato un accompagnamento da CAS a SAI, non si mandavano i migranti per strada da un giorno all'altro. Questa cosa è sotto un esplicito attacco da parte della prefettura, che dice chiaramente in una nota che c'è bisogno di fare spazio, perché si aspettano che a giugno arrivino altri migranti o direttamente dal mare, e quindi vogliono liberare dello spazio all'interno dei CAS. Questa è la logica, e significa non dare nessuna accoglienza, nessuna garanzia nemmeno a, appunto, migranti che hanno diritto alla protezione internazionale. Quindi, insomma, ci dovrebbe essere un passaggio dai CAS ai SAI, quindi un altro circuito di accoglienza, però su questo tema non sono state date prospettive, certezze? Esattamente, cioè la prefettura dice semplicemente: noi ce ne laviamo le mani, quei soggetti non sono più richiedenti asilo perché sono già titolari di un permesso di soggiorno per asilo politico, e non è più un problema nostro, quindi dei CAS, tenerlo. Ora è chiaro che c'è un coinvolgimento in un certo senso del comune, in quanto gestisce il centro della protezione internazionale, e dovrebbe essere quell'ufficio lì di ASP che individua i posti in appartamenti, insomma nella seconda accoglienza, da indicare i migranti. I tempi sono lunghi, ASP dice che il problema viene direttamente da Roma, il problema è che in questa cattivo rapporto e cattiva comunicazione tra le istituzioni finisce che i migranti vengono appunto sfrattati e buttati per strada. Tra l'altro, insomma, non è la prima volta che la prefettura impone cose di questo tipo, però leggevo che questa volta minaccia di sospendere i pagamenti agli enti gestori, quindi insomma una forma di pressione non da poco. Sì, esatto, la minaccia è già stata esplicitata nella nota. Questo significa che le cooperative appunto non hanno più nessun interesse a tenere i migranti, accompagnarli fino all'accesso a un nuovo progetto di accoglienza, perché non riceveranno alcun pagamento. Questo è chiaramente un modo per esercitare una pressione sugli enti gestori stessi, che saranno, come dire, i primi a voler liberare dei posti letto per nuovi migranti, nuovi ospiti che gli portano il guadagno. Sembra quasi un piano quello di poi sbattere in strada migranti per poi gridare a problemi di sicurezza, no? Che questo governo fa spesso. Sì, il piano, a me pare che il piano sia quello di rendere la vita impossibile ai migranti, e quindi di occuparsi nel meno possibile senza guardare alle conseguenze. Poi è chiaro che ora si tratta di 9 migranti di Malalbergo, quando si arriverà, cosa che succederà nelle prossime settimane, a centri grandi come il Mattei o come quello di Ozzano, si parla di centinaia di persone che presumibilmente da un giorno all'altro saranno messe per strada. È chiaro che questo diventa un problema anche per l'amministrazione amministrazione stessa che in qualche modo deve garantire la sicurezza delle persone, cioè dei migranti stessi che non possono dormire per strada all'aperto per mesi e mesi, no?